Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oscar, eccoci! Eccoci qua! Siamo felici perché io prima mi hai fatto esaltare. Ho preso. No, la conduzione con De Luca è fermo. La conduzione dirti di De Luca. Sì, 4.0. Bisogna ammettere. No, io la trovo il futuro della radio che insieme è un mix di informazione, intrattenimento leggero, etica altissima, segno della cos'è la leadership verta. Io l'ho trovata fantastica. Sono un fan. Pura di cialtroneria. No. Ci arrendiamo. Ma lui non lo sa che condurrà presto. No, lui sa tutto, lo sai che De Luca sa tutto. De Luca ci sono suoi colleghi che passano la vita a interrompere ogni 10 minuti. Ho capito, meraviglioso. Perché l'intollerabilità è che lo facciano così spesso, cioè ogni 10 minuti. Vabbè, detto questo, in una botta sola. Esatto, comunque era un plauso da ascoltatore e ammiratore di Alessandro. Allora, 21 febbraio, oggi un'ennesima dimostrazione della potenza di Santa Romana Chiesa, perché ci sono dei santi, tranne uno, che sono dei laici, quindi nessun voto preso in vita, anzi una vita di potere, di combattimenti in armi, di regni, troni. Infatti oggi Santa Eleonora Regina d'Inghilterra, figlia del Conte di Provenza e di Beatrice di Savoia, che divenne moglie di Enrico III d'Inghilterra, padre di Edoardo I, quando si insorsero contro di lei gli inglesi, tant'è che il marito fu preso prigioniero, lei tornò in Provenza alla testa di un esercito, liberò il marito contro i suoi sudditi, eppure è santa, viva Santa Eleonora, quindi una santa combattiva. Idem San Pipino il Vecchio, maestro di palazzo dei re merovingi, anche lui uno che non la mandava a dire, però santo anche lui, ed è poi capostipite dei Carolingi. Capite bene che per la Chiesa non era poi così secondario avere santi di questo tipo. Però ce n'è anche uno invece, santo fantastico oggi, perché un combattente di quelli con la testa dura, un polemista nato, quelli che stanno simpatici a me, cioè Pier Damiani, che nell'undicesimo secolo, un ravennato romagnolo di sangue caldo, sotto sei papi, pensate, combatté in maniera intransigente contro la simonia e la corruzione dei papi, appunto, fino a che poi il suo grande successore divenne il Brando di Sona, Gregorio VII, quello che mise in riga gli imperatori. Quindi devo dire, ce n'è anche di santi buoni, oltre che di compromessi con il potere politico. Oggi che cosa possiamo dire degli anniversari? Franceschini 2009 diventava segretario del PD, che è un precedente alla luce di quello che sta succedendo, non da ridere, per così dire. Mentre nel 2012, oggi, venivano dati alla Grecia i primi 130 miliardi di euro. Sono passati 5 anni e siamo ancora lì appesi. I miliardi sono diventati 300 quasi, però siamo lì. Auguri oggi a Marco Lillo, giornalista che ha iniziato uno studio di commercialista, poi è andato all'Espresso, oggi sta al Fatto Quotidiano. Io sono un suo grande ammiratore, compie gli anni. E anche a Tiziano Ferro, che ha molti fan in Italia e all'estero. E va bene. Allora, caro Oscar, tra l'altro oggi non parliamo della scissione del PD per un cioè voi potete chiamarci su tutto. Potete chiamarci su tutto. Il numero è sempre quello 800. Potete dirci cosa ha pensato, il grido di dolore di Letta o dell'incredulità di Prodi. La scelta. O l'incertezza di Emiliano. Comunque il numero è quello 800 24 00 24. Ma accettiamo i pronostici anche su Emiliano, perché se tanto vale prendere scommesse. Perché bisogna prendere i pronostici alle 10 e poi variarli alle 10:30, poi alle 11:15. Emiliano cambia abbastanza. Come dice il Corriere, Emiliano vacilla. No, però vogliamo parlare un po' di questa, ecco, la mettiamo così, forse sbagliando, di sfida taxi Uber NCC, perché poi dopo si vuole animare, non si vuole animare già una situazione tesa. Sì, io penso che il ritardo della politica che promette e non interviene, come è ovvio anche questa volta, dalla tensione ha iniziato a produrre qualche violenza. Esatto. Speriamo di non vedere violenze. Speriamo, però qualcuna ce n'è già stata. No, vogliamo anche spiegare, perché poi sembra, se no tutti ci si concentra sulle tensioni e non si capisce. Da giovedì tassisti sono anche in alcuni casi in scioperi selvaggi, nel senso in protesta. Oggi incontreranno il ministro Delrio. Non perché, ci sono i taxi, parola povera. Non ci sono, perché qualcuno è felice nella settimana della moda di vedere scorrazzare delle modelle, magari chiedere se hanno bisogno di un passaggio a Milano. No, però, non è che qualcuno, diciamo noi, io, te, io. Cioè, no, però nel decreto mille proroghe di fatto la politica non ha deciso, si è presa un altro anno per entro dicembre 2017 per normare e mettere a norma tutte le questioni riguardanti i noleggiatori con conducente. E quindi i tassisti la vivono come dire, ecco, l'ennesima promessa non mantenuta. Esatto, preparano una sanatoria per Uber. Conto che qua 2 anni e mezzo fa le aveva ricevuto Pisapia dicendo in poche settimane il comune di Milano, se hai voglia. Esatto. Con noi c'è Loreno Bittarelli, storico tassista, presidente nazionale dell'Unione dei Radiotaxi Italiani. Bittarelli, buongiorno. Erbittare, come lo conoscono a Roma, è vero? Buongiorno a tutti. Allora Bittarelli, intanto diciamolo subito, queste proteste di tassisti che sono giustificate, non sono giustificate, sono esagerate, sono un atto di, come dire, disperazione di fronte a una politica che non decide, che cosa sono? Ma sicuramente sono sproporzionate all'entità del problema, in quanto, come lei stesso prima ha ricordato, non è successo altro che l'ennesima proroga che avviene dal 2009 a oggi delle modifiche che furono apportate con il comma 1 quater che rendevano più stringente la nostra normativa nazionale nei confronti dell'abusivismo. Queste norme di fatto non sono mai state applicate e si va di rinvio in rinvio, e è stata sproporzionata questa protesta anche perché sapevamo che il governo non avrebbe posto il voto di fiducia su questo decreto al Senato, probabilmente la stessa cosa avverrà alla Camera. Qual era la strada migliore da seguire? Quella che noi abbiamo percorso, ci siamo attivati per realizzare un incontro con il Ministro, che abbiamo ottenuto per oggi pomeriggio alle 15. Che direte al Ministro? Al Ministro diremo che, dato che il Governo ha avuto una legge delega dal Parlamento per riordinare questo settore del trasporto pubblico non di linea, solleciteremo la costituzione di un tavolo tecnico al fine di mettere a punto queste modifiche nuove di riordino della normativa che riguarda il nostro settore, per rendere più stringenti questa legge nei confronti dell'abusivismo, perché oggi siamo in una situazione che davvero chiunque si mette a fare il trasporto pubblico persone con mille pretesti e nessuno gli dice nulla, quindi bisognerà capire bene chi può fare che cosa in che modo. E questo si può fare soltanto attraverso la legge. Dato di fatto però che le strade sono, cioè si assiste anche a scene, e poi chiaramente i giornali si un po' vanno a pizzicare anche gli episodi più clamorosi. A Milano pare che un NCC abbia tirato fuori una pistola giocattolo di fronte all'ennesimo lancio di uova, perché così era stato accolto dei tassisti. Ma capisce, poi dopo finiscono sui giornali questi estremismi che non aiutano a far capire. Assolutamente, noi ci siamo subito dissociati chiaramente da questi episodi, abbiamo anche invitato più volte la categoria a riprendere il servizio, perché questo creare disagio a centinaia di nostri utenti per un periodo così lungo di tempo credo non sia né una cosa giusta né producente, tant'è che proprio ieri facevo 2 calcoli tra Roma e Milano. Abbiamo rinunciato in 6 giorni a circa 8 milioni di euro di incasso che l'abbiamo regalati ai nostri avversari, a quelli che vorremmo contrastare. Quindi anche come protesta non è una protesta intelligente, oltre che un'opportunità. Oscar, che dici? Ma io sono colpito dal fatto che i politici preferiscano farsi dettare dai protagonisti impegnati a tutelare ciascuno se stesso, come si vede, in spregio dei clienti e del mercato e della concorrenza. Il politico dovrebbe sapere, visto che c'è una regola del 92, c'hanno 25 anni, che nel frattempo qualcosa è successo, si è sviluppato un mercato della domanda e dell'offerta che ha condizioni completamente diverse da quelle dell'offerta regolata dal servizio pubblico dei taxi, che secondo 2 sentenze poi non è neanche servizio pubblico, lo sappiamo perché siamo in Italia. All'articolo 1 della legge 92 è un servizio pubblico, secondo 2 sentenze, una della Cassazione Penale e una del TAR della Toscana, non è servizio pubblico. Viva l'Italia! Questo servirà naturalmente a difendersi contro il garante degli scioperi, secondo il quale questa protesta è illegittima, ma loro diranno che ci sono 2 sentenze e loro sono un servizio pubblico solo quando fa comodo. Io sono molto polemico, sì, perché penso che l'Italia, grazie ai ritardi della politica che non vuole scegliere e preferisce tenere tutti buoni e non capisce che questo è il contrario del suo dovere, se semplicemente impedisce uno sviluppo regolamentato del mercato. Si continua a dire che sono concorrenti impropri, le belve, i rappresentanti dello Stato imperialista e multinazionali. Non è così. Le condizioni di domanda e di offerta dei nuovi tipi di servizio .. non rilasciati su licenza sono diverse da quelle anticamente regolamentate, da regole che vanno anche se cambiate. Ci vuole una transizione ordinata, concordata dalla licenza verso l'autorizzazione, che prenda in considerazione la parte residua non ammortizzata delle licenze, che sono molto onerose, su cui i tassisti spesso sono lavoratori che hanno perso il lavoro, sono impegnati con mutui. Allora bisogna prendere in considerazione quella parte di valore lì, perché non si può dare un calcio alla gente, però bisogna avere un approccio che è aperto a un nuovo tipo di servizi. La politica chiacchiera, fa i convegni, i convegni su industria 4.0, l'economia digitale, le smart city. Poi però, quando si tratta di capire come nel mondo, con diversi modelli, quindi si può discutere, bisogna discutere con tutti, fare, sparisce, perché sono dei minus abentes. Questo, ma io sono proprio brutale in questi giudizi, brutale, perché nelle grandi città italiane, per i turisti, per gli italiani, per quella minoranza, poi ammettiamolo, che prende i taxi, Uber e INCC, perché stiamo parlando di una minoranza di gente che ha più soldi, perché gli altri bisogna dargli i servizi pubblici e basta. Ecco, per quella minoranza di lì, questi sono segni di un'Italia non attrattiva. E mi dispiace, un paese che è bloccato sul fatto, gli dobbiamo far tornare con la telefonata nella rimessa oppure no, dà l'idea a chi ci ascolta dal resto del mondo di essere un'Italia preistorica. Sai, quella col telefono nero a bachelite, la linea fissa, la signorina che ti passa la telefonata con l'elettroselettore meccanico, perché hai visto mai, con la linea digitale abbiamo cacciato le signorine del telefono elettromeccanico, ma vi rendete conto? Questa è l'orrenda tecnologia. Ma cioè, dei discorsi a volte che uno dice, vabbè. Non so se Vittorelli cosa ma ne pensa, io, come si vede, non ce l'ho coi tassisti. No, ma dire, l'accusa un po' essere di un da parte, certo, tutelare chi ha speso tanti soldi, dall'altra parte essere un freno alla modernità, alla libera concorrenza, ovviamente regolata, Vittorelli, selvaggia. Ma guardi che in realtà anche la legge attuale non pone alcun freno alla tecnologia o alla concorrenza. Prima di parlare di concorrenza vedrei un attimo di chiarire quell'aspetto che prima è stato affrontato, ossia se siamo un servizio pubblico o meno, perché se siamo un servizio pubblico regolato, giusto, è giusto ci sia una tariffa prestabilita dalle autorità competenti, come è giusto che ci sia un contingentamento dell'offerta, ma questo è un altro discorso. Voglio parlare alla tecnologia che spesso si usa, il nome di Uber, per far vedere che sono ultra tecnologici, invece sono retrogradi, non vogliono cambiare, non vogliono innovarsi. Ci tengo a ricordare che i tassisti nel maggio 2012, prima che arrivasse Uber, hanno pubblicato un'app che si chiama IT Taxi, che si scarica gratuitamente dagli store, che è attiva in questo frattempo, è stata attivata in 56 città italiane. Uber funziona solo su Roma e su Milano, dove c'è la crema, come diciamo noi. Noi siamo attivi su 56 città, siamo in piena espansione. Il punto quindi non è la tecnologia. La tecnologia, noi siamo favorevoli. No, scusi, perché il mio compito è quello di far capire a chi ascolta. Allora, il problema non è usare un'app, il problema è usare un'app per consentire a chi la usa di sapere in maniera predeterminata la tariffa, e accettando da parte di chi consulta l'app di sapere che il prezzo varia a seconda delle condizioni di offerta e domanda in quel momento, cosa che non è con le tariffe amministrate dei taxi. A, B, chi prende un taxi non ha la tariffa predefinita. C, non ha report dei clienti precedenti. No, è abbastanza, come dico io. Vabbè, altrimenti, se non siamo mai d'accordo sui fenomeni, è la maniera italiana per dire alla gente: ciascuno sa solo quello che dice lui. E vabbè, d'accordo, come vuole lei. Perdoni, ma IT Taxi, lei sarà sicuramente davanti a un computer. Vada a ittaxi.it, lei calcola la tariffa, può acquistare la corsa, può fare tutto quello che vuole. Mentre non ritengo giusto, se trattiamo di un servizio pubblico, che si dà una tariffa indicativa che a seconda della richiesta del momento può aumentare anche del 700%. E infatti questa è la differenza della domanda e dell'offerta. Non è questione di essere giusto, vede? Il problema è che c'è gente che lo accetta accetta come cliente allora che sia così, perché mentre l'offerta limitata, quella dei taxi, come ha correttamente detto lei, la licenza nasce da questo, no? È anche riconosciuto in sentenza, nasce per contingentare l'offerta, e il problema dell'offerta contingentata è quella che deve tenere conto anche dei punti di picco, quando per esempio a Milano c'è la settimana della moda. Questo significa per i tassisti, per i poveri tassisti, passare negli altri giorni spesso ore e ore ai parcheggi, eccetera eccetera. Ecco, invece quell'altro segmento che è diverso, invece dice no, accettate l'idea, caro cliente, che noi costiamo di più quando c'è la maggior domanda concentrata. Sono proprio due cose, appunto, come dice giustamente lei, diverse. E infatti per questo che bisogna tenerle l'una e le altre in maniera intelligente e non prendendo a calci i tassisti che si sono impegnati i soldi. Questo sì. Assolutamente, su questo sono d'accordo. Però credo che tornando a due mercati diversi, però questi due mercati sono regolati dalla nostra normativa che lei prima citato, la 92, sì, no? Sì. E prevedono dei confini tra il servizio taxi e il servizio di noleggio. Sì. Il servizio taxi in quanto servizio pubblico ha l'obbligo della prestazione, ha l'obbligo della presenza attraverso le turnazioni obbligatorie, ha l'obbligo della tariffa e tante altre cose che giustamente requisiti deve avere al servizio pubblico. E ha il privilegio, chiamiamolo così, di svolgere il servizio pubblico da piazza, cioè in vista di tutti, posso stare in suolo pubblico. Il noleggio con conducente invece non ha la tariffa imposta, non ha l'obbligo delle tornazioni, non ha l'obbligo della prestazione, però deve stazionare presso la sua rimessa. Diciamo, ha questa penalità in cambio di tutta una serie di benefici che gli concede la legge rispetto al taxi. È chiaro che sono due servizi distinti e separati. Ma lei può pensare che questa, l'abbiamo per l'ennesima volta ricordato come funziona la norma, nei confronti della quale i tassisti protestano, e giustamente, perché dicono non è rispettata, anche gli NCC prendono i clienti su chiamata oramai mentre stanno facendo altri servizi, e quindi la legge è... Sì, esatto. Okay. Ma detto questo, lei si sente di dire che l'obbligo della rimessa col telefono di bacchelite nera è una cosa... Lo sa qual è il problema? Che a Roma, porto l'esempio di Roma, ma nelle altre città più grandi d'Italia avviene la stessa cosa. A Roma, a fronte di 1000 licenze, autorizzazioni di noleggio con conducente del Comune di Roma, ce ne sono circa 6000 da tutti i più svariati comuni d'Italia. Ma secondo lei è normale che a Roma... Dove ovviamente, raccontiamolo anche ai nostri ascoltatori, costa molto meno piuttosto che quella da prendere a Roma. È chiaro, ma io come faccio a competere? Io, noleggiatore romano, come faccio a competere con uno che prende una licenza, bagna la Calabra perché gliela regala l'amico sindaco in cambio di un prosciutto che gli porta? Metto sopra un... Perché questo avviene, metto sopra un conducente, un pensionato a 5 euro all'ora, oppure un ragazzetto che poverino non c'ha niente da fare, la stessa cifra. È chiaro che riesco ad andare all'aeroporto invece che per 48 o per 45 o per 40, ma noi che siamo a Roma, abbiamo una licenza che costa di più, paghiamo il bollo e l'assicurazione che costa molto di più per rispetto a un paese di provincia. Abbiamo le persone regolari che pagano le tasse e i contributi, è chiaro che così è una concorrenza, diciamo, reale, però io già capire che direte oggi al ministro, perché tanto è deciso, passerà anche alla Camera, che c'è la proroga per decidere fino a dicembre 2017, cioè, quindi quello è il ministro, gli chiederemo, l'ho già accennato, il tavolo tecnico, il tavolo per riordinare il nostro settore e rendere la nostra legge più moderna, più moderna, ma anche più stringente. Guardi, però visto che ci chiamano tanti ascoltatori, c'è anche uno, Giulio da Roma, che credo sia un noleggiatore con conducente, così mi dicono. Buongiorno Giulio. Buongiorno, sì. Io oltre ad essere noleggiatore, quindi sono imprenditore del settore, sono responsabile nazionale dell'Anitrav. Signor Bittarelli mi conosce molto bene, sono Giulio Aloisi. Allora, io credo che il tutto deve essere però ricondotto... Fare un piccolo excursus di qualche anno, perché se non si capiscono certi passaggi, probabilmente non si capisce il tutto. Sì. Allora, nel 2009 furono introdotte delle modifiche alla nostra legge nazionale attraverso una operazione piuttosto particolare di tassisti, che fecero in modo di fare le modifiche nel milleproroghe del 2009. Questo avvenne di notte e fu reivindicato dall'allora sindaco Alemanno. Queste modifiche praticamente imponevano tutte le le restrizioni che probabilmente avete già detto, ma una su tutte, il fatto del rientro rimessa dopo ogni singolo servizio, certo, che è veramente, certo, è veramente anacronistico. Allora, dall'epoca ad oggi, quindi fu fatta proprio un'operazione... dice molto, di notte, molto, molto così, sospetta. No, molto sospetta, troppo sospetta, tant'è vero che, ripeto, Alemanno rivendicò il tutto, disse: voi mi avete votato, quindi adesso faccio cambiare, attraverso i miei amici in Parlamento, faccio cambiare la legge in maniera tale che, che i noleggi con conducente non vi faranno quindi lei dice bisogna ripristinare un po'... No, esatto, ad oggi non è successo nient'altro che ripristinare quello che era. Ad oggi Uber, piuttosto che liberalizzazioni, con l'emendamento appunto della senatrice Lanzillotta, non ha fatto altro che chiarire un punto che è sempre stato da allora fino ad oggi. Perché? Perché nel 2009 subito il governo Berlusconi prorogò l'entrata in vigore di questa legge, perché era incostituzionale. Certo. Allora, fino adesso però il problema è che è importante questo chiarimento che c'è stato della Lanzillotta. Perché? Perché noi fino ad oggi come associazione abbiamo dovuto affrontare tribunali e tribunali per sancire i nostri diritti di lavoro e abbiamo sempre vinto, perché le associazioni taxi che facevano? Hanno fatto in modo che mandavano in giro per tutti i comuni d'Italia questa modifica alla legge e partivano le revoche delle autorizzazioni. No, ma è chiaro. Noi dovevamo intervenire, siamo intervenuti, stiamo ancora intervenendo e questo è uno scandalo. È allora, veramente uno scandalo. Vabbè, Giulio, però mi scusi. No, beh, scusi Giulia, Giulio, però chiuda, perché è da ascoltatore è intervenuto, non possiamo fare un excursus di anni. Dica. Sono molto arrabbiato con i media, non con voi, perché mi state dando voce e vi ringrazio, perché si ascolta solamente Uber e taxi. Io non ho sentito una voce dei noleggi. E questo è gravissimo. Noi siamo, mi perdoni, e chiudo veramente, noi siamo 80.000 imprese in Italia, con un indotto occupazionale di almeno 3-4 volte tanto. Quindi fa impallidire qualsiasi industria. Certo, però quindi siamo presi in considerazione. Dice, non avete voce. Eccoli qua invece. Ecco, io dico a tutti che, come al solito, lo capisco, che l'impostazione è che i problemi fondamentali sono di chi ci lavora. No! I problemi fondamentali sono dei vostri clienti. Questo è il punto che invito tutti, in punta di piedi, sapendo che è un appello ridicolo, perché per voi e per ciascuno dei vostri iscritti è più importante il fatto che bisogna dire io e non gli altri. No, vivere in un mondo in cui i taxi noleggiatori e le nuove offerte diverse da quelle del servizio su licenza pubblica si evolvono. Sapete perché? Perché c'è una domanda che li vuole, che dovreste coltivare con uno spirito diverso da quello di dire non sono in piazza e picchio chi ci vuole andare. Ecco, queste cose qua mi piacerebbe vederle. Invece no, sto invecchiando con l'idea che voi litigate dicendo che la colpa è dei giornalisti. La colpa dite ai politici, che devono imparare che cos'è il mondo. Forse attiriamo più clienti anche per voi. In ogni caso, insomma, vedremo anche oggi questo incontro. Ringraziamo Loreno Bittarelli, presidente nazionale Unione Radio Taxi Italiani. Vedremo questo incontro. Ringraziamo anche l'ascoltatore che lavora, rappresentante nazionale NCC. E tanti ascoltatori su questo. Riprendiamo dopo la pubblicità. Poi parleremo anche un po' di meningite, caro Oscar, perché alcuni, quando vado in giro, eccetera, mi chiedono: ma tu hai vaccinato i figli, eccetera. Cioè, la gente tu a cosa sei vaccinato come adulto? Anche perché la gente è preoccupata, legge i giornali, dice: ma come, ci sono casi, troppi casi di meningite? Tra poco. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qua, oltre 44 minuti. C'è Massimiliano da Milano, buongiorno. Buongiorno Alino, buongiorno Oscar. Eccoci. Senta, io vabbè, sono un noleggio con conducente e vorrei fare una precisazione e soprattutto perché nessuno parla mai di una cosa. Cioè, voi sapete che quando salite su un taxi e fate una corsa lui non vi rilascia niente di fiscale? Nessuno tocca mai questo discorso. Cioè, la differenza è sostanziale, perché i noleggi pagano le tasse. Lei quando prende un taxi le rilascia una ricevuta che non è solo un pezzo di carta. Cioè, la dichiarazione... Questa è l'accusa che c'è, i tassisti si difendono dicendo no, noi paghiamo tutto, lei dice non è vero. Voi lo sapete che tutti e tre vi rimbalzate Uber, taxi, NCC, l'accusa ciascuno di essere evasore fiscale. No, allora mi lasci dire che loro non rilasciano, poi come sa... come sa, i tassisti sono sottoposti a studi di settore, esatto, che a differenza di tanti altri casi, perché io mi occupo anche professionalmente di tutti questi cacchio di baracche di studi di settore, ecco, diciamo che quello dei tassisti è stato tarato nel tempo con una precisione che altri, sono quasi 250, si sognano. Quindi adesso io non metto la mano sulla buona ci fede di nessuno, masore, ma ci sarà. Però per esempio ho buchi di amici tassisti che mi hanno documentato, quelli che usano la vettura stando fuori Milano e la usano per venire a Milano, che con gli studi di settore per esempio ci vanno a rimettere sul conto il costo dei carburanti rispetto al totale di quello che usano per servizio, perché devono scomporre e così via. Quindi ciascuno di voi ha dei problemi col fisco, basta però che non diciate solo che gli altri sono gli evasori, perché non è vero. Comunque lei, Massimiliano, al di là di questo aspetto fiscale, voleva dire una cosa sulla questione... No, sull'aspetto fiscale secondo me non è da liquidare così velocemente, perché volevo solo ricordare che un tassista dichiara al commercialista quello che lui gli dice di incassare al giorno. Quindi se un tassista a Milano, dove mediamente mi discosterò al massimo di 10-20 euro di quello che le sto dicendo, incassa mediamente 150 euro al giorno, fatevi il conto, in un mese, e loro mediamente in un anno di tasse, già ho visto che lei lo sa, ma pagheranno non oltre i 7-8 mila euro totali tra conto e saldo finale di novembre. Lei faccia il conto a 150 euro al giorno, quanto incassano in un mese rispetto a un anno. Quindi quando faranno un tassametro che metterà anche uno scontrino fiscale, cosa che noi invece, lei sa benissimo Giannino, che mettiamo... Fantastico fattura. Come lo Stato sia riuscito a ridurre gli italiani l'un contro l'altro armato, dicendo che tutti sono gli evasori tranne noi. È fantastico e ci cascate tutti. Vabbè. Allora, ci sono tanti ascoltatori, però intanto diamo spazio anche all'altro argomento, altrimenti andiamo un po' a ridosso della chiusura. C'è sui giornali un po' di allarme o allarmismo per la scissione del PD? No. Ero rimasto fermo a De Luca. Però parliamo di un'altra malattia questa cioè volta, non no. Nel senso di una cosa più grave, seria, dai, una cosa seria. No, ci sono stati dei casi di meningite, di persone anche che sono morte. La Lombardia è l'ultima regione che vuole mettere in piedi una task force, ci sono stati 4 casi negli ultimi giorni, però in questi casi bisogna rapportarsi ai numeri, cioè capire se davvero ci sono dei numeri che fanno aumentare l'allarme oppure no. Allora, con noi c'è Roberto Bertollini, che è stato a lungo rappresentante verso l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Unione Europea. Buongiorno Bertollini, oggi è consulente in Qatar, giusto, per il Ministero della Salute. Buongiorno Bertollini. Buongiorno a voi. Allora, intanto vediamo i numeri, cioè perché sa, sui giornali è facile dire c'è allarmismo, ma c'è davvero da essere più preoccupati? Cioè siamo fuori media con fuori eventi media che stanno portando a picchi, di cui a quel punto bisogna capire l'origine e la bassa prevenzione, c'è chi dice sono gli immigrati, oppure no? No, i numeri sono molto chiari, nel senso, se noi guardiamo le tendenze dal 2014 in poi, proprio negli ultimi anni ma anche precedentemente, i numeri sono costanti, cioè abbiamo circa 200 casi all'anno in Italia di meningite e questi sono accompagnati solitamente a una certa frazione, intorno al 10% di casi letali, purtroppo è così, e questo numero non è aumentato. C'è un focolaio epidemico in Toscana, è una zona ben definita, che è stato più volte sottolineato, che effettivamente è stato, come dire, si è evidenziato nel corso del 2015 e del 2016 e al quale la regione ha risposto con un'aggressiva campagna di vaccinazione, ma questo è l'unico focolaio con una certa... Diciamo, infatti avevo letto, la regione toscana è quella più interessata. Dove della Toscana? In quale zona? Guardi, nella regione toscana appunto abbiamo un numero di casi che è leggermente superiore, poi in realtà non molto superiore, ma circa 20-25 casi in più rispetto a quelli che sono stati osservati negli anni precedenti, quindi nella zona sud della Toscana, però diciamo è l'unico focolaio evidente. Per quanto riguarda gli allarmi di altre regioni, sì, diciamo, l'ultima è la Lombardia, studio dei dati, andare a vedere bene nel dettaglio le situazioni, le possibilità di trasmissione eccetera, è una cosa che va bene, però diciamo fino ad oggi nessuno di queste analisi, di questi cluster ha dimostrato una sua evidenza epidemica, quindi diciamo in questo caso parlerei quasi di una cosa che un mio collega usava, un'espressione che usava molto frequentemente, parlava di malattie comunicate, che mi sembra appunto un'espressione abbastanza, cioè, adatta a questa circostanza. Ma lo dica chiaramente, noi siamo laici e siamo un po' noi giornalisti che esageriamo, Bertollini. Ma guardi, non lo so se sono i giornalisti che esagerano, che è proprio il sistema nel suo complesso che va a cercare qualche notizia. Adesso io non vorrei essere così eccessivamente polemico, però queste notizie un po' particolari escono fuori nei periodi un po' di bassa, diciamo così, attenzione dei media. Mi ricordo casi, diciamo, in alcune stati che uscivano fuori dati e notizie molto particolari. Quindi c'è un no, però voglio ruolo, dire, aspetti Bertolini, ci sono però. Ora non direi che è colpa dei giornalisti, perché poi i giornalisti in questo momento sono sotto attacco da tutte le parti. Io voglio difendere la stampa, soprattutto in America. Ma però Oscar Giannini aveva un'obiezione. Dico, dipende, perché i giornalisti a volte sì, devono approfondire. Faccio il classico esempio: ad agosto, quando c'è la bassa, come dice lei, allora ad agosto è un classico. Arriva il caldo, la cosiddetta moria degli anziani, lo dico cinicamente, ma perché è un classico. Però, per esempio, ci sono gli anni, come si è poi confermato nei dati dei decessi del 2014, in cui il fenomeno avviene davvero. Cioè nel 2014 abbiamo avuto una mortalità rispetto ai quasi 600.000 anni in questo paese di quasi 100.000 unità superiori, e allora lì bisogna saper distinguere quando c'è davvero un fatto e bisogna informarne davvero, e quando invece è un po' montato. Allora su questa meningite, oltretutto in Italia ci sono anche polemiche che derivano da chi solleva la questione dicendo: ah, è un effetto della maggiore apertura al mondo, la gente viaggia di più. Poi c'è chi aggiunge: no, è l'effetto dell'immigrazione, perché il ceppo C dicono che non è in Africa, invece no, c'è in Africa e ce lo vogliono nascondere. Questo è un punto, è un punto fondamentale. No, è vero, questo nel senso l'immigrazione non c'entra proprio niente. Ecco. Tra l'altro, appunto, c'è un fatto che noi non consideriamo, che in alcuni ambienti scientifici si parla anche del cosiddetto healthy migrant effect, cioè che coloro che immigrano sono quelli più sani in realtà rispetto alla popolazione da cui provengono. Quindi su questo non c'è proprio nessun dubbio, non c'è nessun effetto della vaccinazione, bisogna dirlo, della migrazione. Questo bisogna dirlo, guardi, fa bene a dirlo, Bertolini, punto. Guardi che ieri io ho letto in rassegna stampa una notizia appunto della Lombardia e subito sono arrivati 2-3 messaggi: lo dica Milan, lo dica, sono gli immigrati. E guardi che quindi è bene, non che è lei proprio niente, guardi, lo diciamo con grandissima forza, questo glielo dico da tutti punti di vista, di osservazione in cui mi trovo, mi sono trovato, eccetera. Su questo problema l'immigrazione non c'entra assolutamente nulla. Il problema che abbiamo è, ancora una volta, in alcune situazioni ci sono stati questi cluster epidemici, forse in questa situazione toscana stiamo cercando, il sistema pubblico italiano sta cercando di contenerlo con una campagna di vaccinazione. Purtroppo la campagna di vaccinazione ci vuole tempo perché entri in funzione, diciamo così, diminuendo la circolazione dell'agente patogeno, però questo è quello che sta succedendo sulla meningite. Per quanto riguarda quello che diceva Giannino prima, io sono d'accordo, esistono delle cose che succedono. Quel caso che lei, di cui lei parla, è stato la mortalità degli anziani in quel periodo, è stato imputato a varie ipotesi, diciamo così, tra cui una di queste era proprio la diminuzione della vaccinazione anti-influenzale esatto, nel periodo precedente, che aveva fatto accumulare, che aveva prodotto appunto un effetto, diciamo, di trascinamento sulla mortalità degli anziani. Mm-hmm. E poi ci sono anche le andate di calore, non ce lo dimentichiamo. Adesso io non ricordo il 2014. No, ma me ne sono riuscito proprio perché quell'anno è diventata un'anomalia nelle serie storiche. Quindi il problema è che di agosto in agosto il giornalista deve essere in grado di capire se è una notizia a cui dare retta o meno. Chiaro. Cioè bisogna avere gli strumenti per approfondire scientificamente e acchiappare quelli di voi, che poi a quel punto ti danno l'autorevolezza del dato interpretato. Comunque, Roberto Bertolini, noi la ringraziamo perché ci ha chiarito alcune cose. Intanto sul speriamo fatto che chi ascolta abbia capito. Esatto, abbia capito due aspetti fondamentali. I numeri soprattutto sono soprattutto che chi ci ascolta faccia vaccinare i propri figli, gli adolescenti, e soprattutto si vaccino anche gli anziani sopra i 65 anni contro il pneumococco, che è una causa di vaccinazione o di meningite oltre che di polmonite. Grazie, poi i numeri sono in linea, a parte qualche piccolo discostamento in Toscana, e poi l'immigrazione non c'entra nulla. Poi tanto ci saranno quelli che diranno che Bertolini non so, lo dirà per qualche tipo di, per esempio, di io e Margherita andiamo a fare il meningococco e noi i bimbi li abbiamo vaccinati su questo e continuiamo a vaccinare, però vabbè. So che chi la pensa diversamente, no, secondo me sbaglia. Chiaro, che qua apriamo il fronte. Non apriamo il fronte vaccini, che mancano 10 secondi alla fine. Hai ragione. Ma andiamo in onda De Luca? Volta. No, niente De Luca. No, De Luca sui vaccini ha qualcosa da dire. Sempre, su tutto. De Luca, una parola buona per tutto. Sempre. Per sempre. Come mi sono divertito. Eccolo qua, a domani.